cartellone di Elisabetta Fiorito. Signori miei, sentite, sentite! Signori miei, accorriti! Accominciamo con una domandina facile, facile. Qual è la distanza più breve tra i due ponti? Una retta! Una retta? A Stoccolma, forse! Forse pure a Milano! Forse così si usa persino per quanto a Siracusa! A Cinisi invece la distanza più breve tra i due punti sono tre curve, una, due e tre. Signor Sindaco, è vero quello che abbiamo... E l'avete riconosciuto, uno dei più grandi attori italiani è Luigi Locascio. Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Cartellone. Questa sera, sabato 26 settembre, dalle 18 in poi, Luigi Locascio, insieme anche ad Ascanio Celestini e ad Henry De Luca, sarà a Cesena per la notte per la cultura, 22 spazi animati. E Luigi Locascio, attore siciliano, lo sappiamo, leggerà un secolo di poesia in Sicilia, da Pirandello a Sciascia, un impegno gravoso. Buongiorno Luigi. Buongiorno, sì sì, abbastanza gravoso, infatti chissà come va a finire. Senti... Comunque prima o poi comincerà, diciamo, la cosa che mi sostiene è il fatto che quando ci sono le imprese disperate, diciamo, la sconfitta fa parte dell'ordine delle cose, quindi anche se dovesse andare male, diciamo, avevo già detto che era una cosa molto complessa, perché effettivamente sono tantissimi i poeti, in realtà pochi sono conosciuti come poeti, come, che so, Pirandello o Sciascia, sono più considerati come narratori o anche come appunto drammaturghi, ma in realtà quasi tutti hanno cominciato con la poesia, ecco. Senti, intanto ti devo dire dall'altra parte del vetro che Alessandro, il mio regista, e la mia assistente Antonella hanno detto che tu sei il loro attore preferito, per cui io te lo riferisco. Grazie. Mi sembra di vederli, grazie. Allora, poi noi abbiamo sentito un brano in cui tu interpretavi Peppino. Stasera o no, riuscite ad essere? Speriamo. Ma non tanto per me, quanto, come dicevi tu, per Henry De Luca, per Ascanio Celestini, e poi tutta la notte è una notte di cultura, di appunto balli, canti, musica, letteratura, approfondimenti, ma anche cucina, ecco, quella è una delle cose più interessanti, ci sono proprio ospiti, la cucina siciliana, la cucina anche campana e quella emiliana, il cibo da strada, sai, per cose per cui noi siamo abbastanza... siamo tra i migliori nel mondo, si mangiano delle cose buonissime, chi non è venuto a Palermo vi invito a farlo perché sono delle cose eccezionali, il pane camea, l'acquarume, il seghiole, c'è tutta roba che appunto dai nomi arabi quasi, ma che nascondono delle grandi pietanze. Ma che cosa sono? A parte quello, poi noi abbiamo, ti volevo dire che abbiamo lanciato chiaramente i 100 passi, la tua interpretazione di Peppino Impastato, abbiamo sentito all'inizio, ma qual è il tuo rapporto con la Sicilia? Ma guarda, già nelle parole che sentivo in Peppino ci sono delle cose che hanno a che fare anche con il mio rapporto con la Sicilia, cioè lui parla appunto di una anomalia, c'è cioè qualcosa di strano, in Sicilia è come fosse un'isola in cui sono presenti gli opposti, i contrari contemporaneamente, quindi appunto da una parte c'è il sindaco che è un soggetto abbastanza terribile, ma dall'altro c'è anche Peppino che urla sotto il municipio, quindi diciamo il fatto che sia una terra piena di contrasti e quindi comunque di movimento, questo mi attrae molto della Sicilia, e poi anche il gusto della rappresentazione, del teatro, cioè penso che appunto a Pirandello, alla Maschera, sono tutti temi che i siciliani hanno dentro come se facessero parte proprio della loro natura. Senti, ma Sicilia vuol dire anche Magna Grecia, a questo punto ti abbiamo preparato una piccola sorpresa perché siamo andati a rovistare su internet e abbiamo preso un pezzettino della Caccia, il tuo spettacolo dalle baccanti di Euripide. Avevamo trascorso una magnifica giornata di caccia, stanchi ma soddisfatti per il numero di prede uccise o catturate tra le maglie strette delle nostre reti. Avevamo deciso di riposare già quando era disceso il primo buio. Poi, l'indomani, avremmo comunque ripreso a cacciare tra i boschi. Non feci fatica ad addormentarmi. Il mio corpo era talmente spossato che mi bastò socchiudere le palpebre per precipitare in un sonno così profondo da somigliare all'istante iniziale della morte, quello in cui... Luigi, abbiamo sentito questo brano di questo spettacolo che tu hai portato in tournée l'anno scorso, riprenderà quest'anno? Sì, sì, è una riduzione delle Baccanti di Euripide, appunto si chiama La Caccia, andrà ancora in giro per l'ultimo anno, e però sarà appunto in città importanti, sarà di nuovo a Milano, all'Elfo, a Bologna, al Duse, e poi insomma in giro per, soprattutto il nord, perché l'anno scorso abbiamo fatto invece Roma, Napoli, la Calabria e la Sicilia. Sono molto legato, perché chiaramente, a parte il fatto di recitare e di stare lì e sentire già subito che effetto fa sul pubblico, il fatto di averlo scritto io mi dà come una specie di responsabilità in più, sono sempre attento a capire cosa arriva e cosa invece c'è ancora da approfondire e da cambiare. Infatti è un testo che, anche se è stato pubblicato, è in continuo movimento, anche alle indicazioni del pubblico. Luigi, stasera tu appunto leggi gli scrittori siciliani, e c'è stato un momento in cui tu a Santa Rosalia hai parlato anche di Falcone e Borsellino, proprio di quello che è successo negli anni recenti. La morte del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo, degli agenti di scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Quando hanno saputo della morte di Falcone, a Lucciardone i boss hanno brindato. Ecco, a Lucciardone i boss hanno brindato. Abbiamo sentito un brano un po' disturbato perché appunto catturato da un real audio. La cattedrale di Palermo, c'erano non so, 100.000 persone, era veramente, anzi questo è come si chiama, un bootleg, è una cosa rubata da qualcuno che poi ha pensato di metterla su internet, perché si vede che magari è rimasta colpita dal testo innanzitutto, e poi dal ricordo di questi uomini straordinari. Io mi ricordo che quando io in quel periodo studiavo in accademia, quando ci furono le due stragi, mi ricordo che stare lontano da Palermo in quel periodo era molto complicato, anche stare lontano dalla famiglia e da quello che succedeva in quell'ombra. Le immagini sembrava veramente Beirut, una città bombardata, una città piena di militari, di minacce. E mi ricordo che io non riuscivo a recitare, cioè andavo alle prove dell'Accademia e chiesi al mio maestro di non partecipare, e questo lo dico perché è proprio il segno della giovinezza, cioè queste cose possono paralizzare, possono bloccare. Invece per fortuna a un certo punto è venuto fuori l'orgoglio della città, e per molti anni c'è stata appunto quella che può essere chiamata la primavera di Palermo. Ora un pochettino si è stemperata questa forza, e spero che torni presto. Allora, ricordiamo intanto che Luigi Lo Cascio, come abbiamo sentito, è un attore, ma anche un attore molto impegnato proprio dal punto di vista civico, per il teatro civico e per un'azione migliore, si spera. E stasera, per chi vuole, il 26 settembre dalle 18 in poi, nel centro storico di Cesena, 22 spazi animati, anche con Luigi Lo Cascio, che legge Pirandello e Sciascia. E abbiamo sentito, Luigi sarà in tournée di nuovo con il suo spettacolo La Caccia, tratto dalle Baccanti di Euripide, quindi per chi volesse, durante quest'inverno ci saranno molte occasioni, e noi speriamo di riospitarti a Cartellone. In bocca al lupo, Luigi. Crepi il lupo, grazie. Cartellone. Adamo conobbe Eva, sua moglie, che concepì e partorì Caino, e disse: ho acquistato un uomo grazie al Signore. Poi partorì ancora Abele, suo fratello. Ora Abele era pastore di greggi, mentre Caino era lavoratore del suolo. Trascorso del tempo, Caino presentò frutti del suolo come offerta al Signore, mentre Abele presentò a sua volta primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Il Signore disse allora a Caino: perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovresti forse tenerlo alto? ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta. Verso di te è il suo istinto e tu lo dominerai. Iniziamo questa seconda parte di Cartellone con il libro letto da un grandissimo attore, Roberto Benigni, il libro, la Bibbia, perché quello è considerato un po' il libro, ma ad ottobre non piove solo la Bibbia, non piove solo un libro, ma piovono veramente dei libri. Attenzione che venite colpiti da questa valanga che si avvicina, perché è un'iniziativa fatta dal Centro per Libro e la Lettura e in collaborazione con Radio 24. Ci saranno proprio delle iniziative, perché a partire dal 1 ottobre, dal lunedì al venerdì, su Radio 24 ci saranno due momenti in cui si ricordano questa iniziativa. Dopo il GR delle 10 e subito prima del GR delle 23, una striscia quotidiana di approfondimento. E noi parliamo con Flavia Cristiano, nostra ospite, direttrice del Centro per Libro e la Lettura. Buongiorno, dottoressa Cristiano. Buongiorno a voi. Allora, che cosa vuol dire piovono libri? Questa è una campagna nazionale di promozione della lettura. Piovono libri nel senso che in tutta Italia, ad opera di tutti i soggetti che aderiscono alla nostra iniziativa, c'è un'ampia libertà e tutti possono partecipare, in tutta Italia si terranno manifestazioni per avvicinare il libro al lettore, quindi piovono letteralmente i libri sulle piazze, vanno in corriera, escono dai luoghi deputati che sono le biblioteche, le librerie, per andare incontro, avvicinarsi ai potenziali lettori che noi speriamo abbiano modo di crescere grazie a questa iniziativa. In Italia si legge sempre poco, no? Ci sono varie altre attrattive, chiamiamole così, la televisione, soprattutto un po' la fa da padrona, e gli italiani sono proprio dei lettori scarsini, scarsettini per gli standard europei. Per quale motivo? In Italia effettivamente si legge poco, almeno dai dati statistici gli italiani non è un popolo di grandi lettori, questo è certo. E i motivi, forse complicato riassumerli, sono tanti, sono di carattere storico, di carattere culturale, eppure siamo un paese che ha una ricchissima produzione editoriale, quindi siamo un paese ricco sia dal punto di vista delle case editrici sia dal punto di vista degli autori. E dovremmo leggere di più, forse serve un impegno comune di tutti, ciascuno per la sua parte, ma soprattutto la scuola e le istituzioni ovviamente, perché che tutti leggano è un vantaggio per tutto il paese cresce con la lettura. Lo slogan nostro di quest'anno è: quando piovono libri crescono le idee, ed è effettivamente così. I libri aiutano a crescere nella consapevolezza di sé, nella conoscenza del mondo, e quindi vanno sostenuti. E la prima cosa da fare è mettere insieme tutti quelli che già lo fanno e lo fanno con passione, ed è quello che noi abbiamo fatto in questa campagna, cioè creare il network dei soggetti pubblici e privati che sono interessati alla lettura, e i risultati sono molto positivi, forse si legge più di quanto non pensiamo. Senta dottoressa, allora prima di tutto lei ha detto: quando piovono libri crescono le idee, e io devo dire, vogliamo ricordare questa splendida locandina perché c'è un ombrello rovesciato e dei palloncini che cadono, che sono dei libri poi, che cadono dal cielo. E la cosa fondamentale, io vorrei ricordare anche il vostro sito www.cepel.it per sapere dove trovare, dove incontrare i libri, ma ho visto che ci sono 750 punti d'incontro, dove? Sparsi in tutta Italia? Tutta Italia, non c'è regione che non abbia più comuni coinvolti, e i comuni coinvolti sono grandi città, perché Roma, Firenze, Milano, Napoli, tutte le grandi città, ma anche centri piccolissimi dove soprattutto le biblioteche comunali, devo dire, o le amministrazioni comunali, ma anche associazioni, anche librai, hanno organizzato iniziative. Per cui abbiamo veramente una geografia capillare che raggiunge tutta Italia, nord, centro, sud, il centro, il nord al maggior numero, ma il sud in forte crescita, devo dire, e c'è dal piccolissimo comune alla, appunto alla, a Roma, la capitale. E vogliamo dire una cosa per chiudere, dottoressa Cristiano, si parla di libri, si parla di saggi, si parla di romanzi, di che cosa si parla? Beh, si parla di tutto, ma ci sono soprattutto iniziative per avvicinare il libro che vanno dalla caccia al tesoro organizzata nelle librerie, alla lettura dei nonni per i nipotini, ai reading, agli incontri conviviali in ristoranti per parlare di libri, quindi c'è veramente di tutto. Potete leggere tutte le iniziative sul nostro sito. E la ricerca si può fare sia per località, ma anche per tematiche che interessino, oppure per tipologia di ente, se siamo interessati alle biblioteche piuttosto che alle associazioni culturali. Ringraziamo la dottoressa Flavia Cristiano. Ad ottobre piovono libri, attenzione, perché questo è un avvertimento che viene dal Centro per Libro e la Lettura, ma anche da Radio 24, che sostiene questa iniziativa due volte al giorno, dopo il GR delle 10 e subito prima del GR delle 23. Ricordiamo allora, per informazioni, www.cepel.it, oppure il nostro sito, il sito di Radio 24, www.radio24.it. Quando mi arriva la telefonata sono sulla porta. Hai saputo che cosa è successo alla tua aquila? Dice proprio così mio suocero. La mia aquila. Improvvisamente mi vengono in mente le chiacchierate su Facebook con Raffaella, le sue preoccupazioni, le notti passate senza chiudere occhio, in quei mesi di scosse leggere ma continue, una lenta ed estenuante preparazione al disastro. È stata una scossa forte? Chiedo. La città è devastata, è la risposta. È il 6 aprile 2009. Nella notte una scossa superiore al sesto grado della scala Richter ha colpito la città. Mi precipito allo studio. E quello che avete sentito è un brano di Un paradiso all'inferno, un libro di Rebecca Solni, una scrittrice che si è occupata di comunità solidali dei terremoti e di altri disastri. Una scrittrice che sarà presente alla Facoltà di Scienze all'Aquila nella tendo struttura di Coppito martedì 29 settembre alle ore 11. Insomma, un incontro per ricordare quanto si può fare proprio per prevenire e quanto spesso non si fa. Per capire di che cosa parla questo libro, noi abbiamo il curatore italiano Andrea Spila. Buongiorno Andrea. Buongiorno a voi. Allora, Un paradiso all'inferno, e questa scrittrice americana che vive a San Francisco, che è arrivata in Italia e che qui in Italia, proprio per presentare questo libro, si occupa anche dell'Aquila. Perché? No, in realtà non si è occupata lei dell'Aquila, questa è stata una proposta che noi abbiamo fatto a Rebecca Solnit, quella di integrare il suo libro con un capitolo aggiuntivo che ho scritto io. Io sono il suo curatore, ma anche il suo traduttore italiano. E siccome lei nel libro si è occupata di cinque disastri, che sono il terremoto di San Francisco, quello di Città del Messico del 1985, poi dell'11 settembre di Katrina, e insomma di eventi poi molto chiaramente legati al contesto americano e degli Stati Uniti, quindi abbiamo pensato che potesse essere una buona idea aggiungere un capitolo. Quello che abbiamo sentito era un brano, per l'appunto, da questo capitolo che si intitola L'Aquila Solidale, e che è in appendice al libro di Rebecca. Ricordiamo quindi l'evento, che è martedì 29 settembre alle 11 nella tendo struttura di Coppito. Andrea, che cosa ti ha colpito del libro di Rebecca Solnit? Quello che mi ha colpito, credo che colpisca un po' tutti, ha colpito anche la mia editor, e in generale credo che colpisca tutti quando leggono le prime pagine del libro, è la gioia. E questa emozione di cui parla Rebecca, che stranamente ha ritrovato in tanti contesti di disastri di vario genere. La gioia delle persone di fronte al disastro. Sembra una cosa paradossale, ma in realtà è la gioia delle persone che riscoprono la comunità. Quando cadono le mura quando le persone si trovano fuori casa riscoprono i propri vicini, la propria comunità, e questa è una novità che li porta proprio a godersi una vita sociale che prima non avevano. Ti ringraziamo, ricordiamo martedì 29 settembre alle ore 11 Rebecca Solnit con Un paradiso all'inferno, le comunità solidali dei terremoti e di altri disastri, e Rebecca Solnit sarà anche sabato 3 ottobre a Caffè Castello in occasione del Festival di Interazione di Ferrara. Io ricordo anche che il libro è edito da Fandango, e ascoltiamo un altro brano di questo libro. La storia dei disastri dimostra che per la maggior parte siamo animali sociali alla ricerca famelica di legami, oltre che di uno scopo e di un significato da dare alla nostra vita. E questa stessa storia suggerisce che se siamo fatti così, allora la nostra vita quotidiana in gran parte del mondo è un disastro che le calamità a volte ci offrono l'opportunità di trasformare. Rompono i muri che normalmente ci tengono rinchiusi e ci lasciano in balia di una marea che può essere enormemente distruttiva, ma anche creativa. Le gerarchie e le istituzioni non sono adeguate a queste circostanze e anzi sono spesso loro che non riescono a far fronte a queste crisi. La società civile, al contrario, riesce a dare il suo meglio, non solo con la propria dimostrazione emotiva di altruismo e mutuo soccorso, ma anche con la sua capacità di mettere in campo creatività e risorse per affrontare le sfide che si presentano. Solo questa forza dispersa di innumerevoli persone che prendono innumerevoli decisioni può affrontare adeguatamente una grande crisi. Cartellone. Cioè, perché quella mia madre non ci credeva troppo a me, capito? Cioè, quella credeva soltanto al Padre Eterno che sta in cielo. Ma pure un po' di fiducia, per noi che stiamo in coppa a terra, ci va, no? Se non c'è stima, non c'è speranza, no? E c'è troppa approssimazione, troppo qualunquismo. No, perché dice che mia madre non credeva troppo in me, perché pure la madre di mia madre non credeva troppo in mia madre, capito? Perché il padre della madre di mia madre non credeva troppo nella madre della madre di mia madre, capito? Perché la madre del padre della madre della madre, cioè, era una specie di tradizione di famiglie, capito? Cioè, nessuno credeva più a nessuno. No, perché dice che siamo tutti quanti vittime di vittime. Io non sono d'accordo, scusi. Vittime di che? Di vittime. Sì, ma la prima vittima, chi era vittima? Scusate, ma... Cioè, un carnefice ci deve essere pure stato, cioè, uno che si assume la responsabilità è troppo più importante, no? E perché sennò c'è troppa approssimazione, troppo qualunque. Anche perché in Italia la responsabilità non è che ce l'assumiamo così facilmente, noi tendiamo sempre un po' a fare scarica barile. Io sono la prima, ammetto la mia colpa di essere alle volte un po' troppo italiana. In un'accezione negativa, ovviamente. Quello che avete sentito è uno spettacolo che si chiama Kamikaze Napoletano. Sì, perché i kamikaze non sono solo in Afghanistan, no, sono anche a Napoli. E questo Kamikaze Napoletano ha il nome di Rosario, più napoletano di così si muore. Allora, Arcangelo Iannace è lo scrittore e l'interprete di questo spettacolo, che da martedì 29 settembre fino all'11 ottobre sta al Teatro Argo Studio di Roma in Trastevere. Buongiorno Arcangelo. Buongiorno a voi, buongiorno a te, come stai? Bene, tu allora che è una tragicomedia, che cosa fa Rosario, sì, in questo spettacolo? Rosario sta cercando un motivo più grande per morire, perché in realtà non è riuscito a trovare un motivo più grande per vivere, e allora cerca di riscattarsi con la morte. Con la morte secondo la religione islamica, non secondo i dettami dei martiri cristiani, e si scontra con tutta l'italianità, la napoletanità e col traffico di Roma per andare a far saltare in aria non diciamo chi. Ecco, ma sentiamo proprio questo momento in cui lui sta sul Lungotevere, questo fiume che per i napoletani, insomma, è sempre un po' troppo a curve. Io, qualsiasi napoletano che viva a Roma, sento che non si sa orientare perché manca il mare e il fiume gira troppo. E allora pure Rosario ha le sue difficoltà. Sentiamo. Io sai che faccio? Arrivato al Lungotevere, ci volta a sinistra, no? Piglio sottopasso, quello ci buca proprio a fianco al colonnato, no? Cioè, male che va, metti che mi va male, no? Io mi lancio, cioè almeno una colonna la faccio carino, cioè è qualcosa di più grande, no? È un simbolo, no? Perché Mario diceva sempre, no? Se tu non puoi fare qualcosa di più grande nella vita, almeno fallo nella morte. Diventa martire, hai capito? Martire, ma i napoletani già un po', no? Fanno i martiri o no, Arcangelo? Ma I napoletani devo dire che sono un popolo meraviglioso, ovviamente. In questo momento sono un po' martiri di una condizione generale, però noi non stiamo lì a specificare, si scherza un po' pure con la storia, no? Con tutti i casini che ci abbiamo, i sensi di colpa, le cose. Era questa l'intenzione, di poter giocare con un argomento che invece di per sé non è così semplice e leggero, no? E allora sì, siamo dei martiri tutti quanti. Tu non ti senti un po' martire? No, io no, no, guarda, semmai martirizzo gli altri, soprattutto chi è al di là del vetro che mi deve sopportare. Ma a parte questo, Arcangelo, la tua esperienza di napoletano trasferito a Roma, com'è? Guarda, Roma è ovviamente è una mamma, fai conto, la mamma per eccellenza, una grande mamma che ti dà tutto, però poi non riesci a lasciarla andare, perché è una mamma anche un po' castrante, se vogliamo. È troppo bello stare qui ed è difficile andare oltre qui. Ma spesso. Ecco, tu per esempio, la nostra radio trasmette principalmente da Milano. Che rapporto hai? Napoli-Milano è tipo Totò e Peppino, Nuvole Mossa, guarda. No, non è esattamente questo, però in realtà è lo spirito, i colori, il sapore è quello. È sempre quello delle è l'uomo, si racconta l'uomo del sud che si scontra con tutto quello che è il disagio e la bellezza del sud. Ricordiamocelo sempre che il sud è bello, come è bello il nord, è bella tutta l'Italia. Allora, io ricordo questo monologo che dura quanto, Arcangelo? Guarda, sono i 50 minuti che fanno divertire e non fanno annoiare nessuno. Kamikaze napoletano dal 29 settembre all'11 ottobre al Teatro Argo Studio di Trastevere a Roma. Dalle piante, dalle solitudini, dalla vita violenta escono i veri segreti, profondi trattati di poesia che nessuno può leggere perché nessuno li ha scritti. Si impara la poesia passo a passo, tra le cose e gli esseri, senza isolarli, bensì unendoli tutti in una cieca estensione dell'amore. E questa sera al teatro Una Finestra sulle Valli a Villa Arperosa in provincia di Torino abbiamo sentito un brano del Funerale di Neruda, uno spettacolo scritto da Luis Sepulveda ma poi messo in scena da Renzo Sicco. Buongiorno Renzo. Buongiorno. Di che cosa parla? È una possibilità per scoprire questo grande poeta? Sicuramente parla di due vicende parallele che si uniscono nei giorni che vanno datati nel settembre 73. La morte di un grandissimo poeta, premio Nobel e rappresentante sicuramente della poesia e della letteratura latinoamericana, e dall'altra parte i giorni duri in cui un popolo perde la libertà in seguito al golpe di Pinochet a Santiago del Cile. Le due vicende si mescolano perché la morte del poeta avviene anche accelerata dai durissimi fatti che si svolgono nel suo paese e quindi dalla reazione che il suo fisico ha alle notizie sempre più gravi e ovviamente molto laceranti delle morti degli amici, delle persone che hanno vissuto insieme a Neruda stesso, e dall'altra parte il suo funerale diventa la prima e l'unica manifestazione collettiva nei duri giorni appunto del golpe. Quindi è un modo per riscoprire quello che è successo in Cile negli anni 70, ma noi ricordiamo anche questa visione un po' romantica che c'era nel film Il Postino. Certo, c'è ad esempio, è molto importante dire che questo nostro spettacolo, uno spettacolo avviene in una maniera un po' particolare perché non avviene sul palcoscenico ma avviene in mezzo al pubblico come una vera e propria veglia funebre. C'è una bara su cui è seduto il poeta e ci sono i suoi amici, la moglie Matilde, che lo vegliano in questa casa devastata, perché la casa è la Ciascona, la casa, una delle tre bellissime case di Neruda, quella di Santiago, che immediatamente dopo i giorni del golpe fu distrutta dai militari e in cui comunque invece Matilde volle che avvenisse l'atto funebre, perché Matilde affermò convintamente che Neruda non avrebbe accettato di essere vegliato in nessun altro posto che non fosse la sua casa. E Però tutto questo che dà una densità, come dire, drammatica, poi diventa straordinariamente leggero e poetico nel momento in cui la bara si apre, perché la bara si trasforma in una barca, si trasforma nelle case di Neruda, dalla bara escono gli oggetti che lui ha amato, che ha raccolto nel mondo, che sono gli elementi della sua poetica e sono anche l'architettura delle sue case. Ecco, tu hai parlato di quello che è successo in quegli anni in Cile, poi negli stessi anni, anche un po' dopo, ci fu il golpe in Argentina, insomma furono degli anni molto cupi, però Neruda ha portato le nostre generazioni, soprattutto la generazione che aveva 20 anni negli anni 80, un po' a sognare attraverso le ali della poesia. Beh, queste sono le parole infatti che Sepúlveda ci ha regalato con un elogio funebre che viene ovviamente recitato alla fine dello spettacolo, in cui proprio questo concetto, cioè che cosa ha lasciato Neruda, ha lasciato che cosa ha insegnato prima di tutto, ha insegnato la capacità di sognare e ha lasciato questo fortissimo desiderio che il sogno sia il motore della vita delle persone, che sia la spinta, che sia l'alimento perché la vita possa essere allegria e sorriso. Sulla sua bellissima casa di Isla Negra all'ingresso c'è una scritta fatta a fuoco su un asse di legno che sostiene il portale d'ingresso, che secondo me è bellissima, che dice: ho viaggiato per il mondo costruendo l'allegria. Ecco, io credo che questo sia, come dire, il disegno di una vita e sia ovviamente anche quello che Neruda ci lascia nella ricchezza, nella ridondanza, nella generosità dei suoi poemi e dei suoi scritti. Senti Renzo, questo spettacolo appunto stasera è a Villa Perosa in provincia di Torino, al Teatro Una Finestra sulle Valli, mentre durante la prossima settimana sarà proprio a Torino. Ci vuoi ricordare le date? Ma sarà a Torino in occasione anche dell'ospitalità che noi come Assemblea Teatro daremo a Fernando Sáez García, che è il direttore della Fondazione Neruda di Santiago del Cile, che sarà nostro ospite per una 4 giorni, di cui in cui si terranno 5 avvenimenti, 4 al Circolo dei Lettori di Via Bogino 9, che è un punto importantissimo ormai nell'attività culturale e letteraria della città di Torino, e uno si terrà invece nella facoltà di architettura nel Castello del Valentino, nel Salone d'Onore, e parleremo di varie cose in questi incontri. Parleremo della vita e dell'opera ovviamente di Pablo Neruda, ma parleremo anche del Poncho di Neruda, ovvero di questa sua passione per un artigiano piemontese, Alberto Tallone, un bravissimo tipografo da cui Neruda si faceva stampare dei pregiatissimi libri di poemi in pochissime copie, perché il lavoro era veramente totalmente artigianale. E parleremo ovviamente delle case di Neruda nella facoltà di architettura, le 3 magnifiche case, la Ciascona, Isla Negra e la Sebastiana di Valparaíso, che sicuramente chi ha visitato il Cile ha visto, e chi non ha visitato il Cile invece deve conoscere, quindi sarà un'occasione. Insieme a questi avvenimenti noi ripresenteremo al Circolo dei Lettori nelle serate di martedì 29 e di mercoledì 30 il funerale di Neruda alle 21, sempre qui a Torino. Ricordiamo allora sabato 26 settembre, ovvero oggi, ore 21, a Villa Perosa, Teatro Una Finestra sulle Valli, il funerale di Neruda, regia di Renzo Sicco. In bocca al lupo, Renzo. Grazie moltissimo. Cartellone. E adesso ci spostiamo a Milano, dove al Teatro Nuovo si prepara Kitchen, The Kitchen. Massimo Chiesa è il regista di questo testo di Arnold Wesker, che andrà in scena proprio al Teatro Nuovo di Milano dal 29 settembre al 4 ottobre. Buongiorno Massimo. Ciao, ciao a tutti. Sento molto rumore, molta molta confusione per queste prove, perché ci sono 32 sì. Attori in scena addirittura. Ahimè sì, in quanto sono regista ma anche produttore, e quindi sì, siamo in tanti, sono 32 attori, 8 tecnici, e che per uno spettacolo di prosa è abbastanza inusuale, magari quindi, qualche musical sì, ma insomma. Quindi produttore vuol dire che li devi anche pagare questi 32 attori? In quel senso sì. Ai ai ai. Senti, questo testo di Arnold Wesker, sì. Che tipo di testo è? È una commedia, ovviamente, ambientata in una cucina. Io ho visto le immagini che sono sul sito del Teatro Nuovo, dove ci sono tutti quanti vestiti in questa enorme cucina, tutti quanti vestiti da camerieri o da cuochi. C'è la cuoca un po' più cicciottella, c'è la cameriera un po' più avvenente. Che cosa succede in questo ristorante? Ma guarda, è un testo degli anni 50, scritto da Arnold Wesker, che è tuttora un grandissimo autore inglese di teatro, e è la storia di una giornata di una grande cucina, di un grande ristorante londinese degli anni 50. È un ristorante dove non si guarda la qualità del cibo, ma al numero. Ci sono 4.000-5.000 clienti al giorno, e si comincia la mattina all'alba e sino ad arrivare alla sera. Che accade? Non accade assolutamente nulla, o meglio, accade tutto, nel senso, è un microcosmo, è come se fosse un mondo questa cucina, dove si incontrano diverse umanità. E pensiamo che negli anni 50 la seconda guerra mondiale era finita da 5 anni, per cui ci sono in prevalenza cuochi inglesi, ma ci sono 2 cuochi tedeschi, e poi ci sono i lavapiatti ciprioti, che sono un po', non so, i rumeni di oggi, i nostri, e tutto è ahimè di grande attualità, si toccano tantissimi temi, dall'aborto al razzismo, ai rapporti interpersonali, ai rapporti d'amore, ci sono delle storie d'amore all'interno di questa cucina, è il mondo. Quindi diciamo che tu a un certo punto fai questo parallelo, perché ci sono i rumeni di oggi che sono appunto, come dicevi, sì, i ciprioti, o quelli che erano gli italiani negli anni 50 che emigravano a Londra. C'è anche un cuoco italiano, infatti, che si chiama Alfredo. Meglio, perché insomma gli inglesi come cuochi non è che siano considerati il massimo, no, pessimi, del gourmet. Pessimi, assolutamente pessimi. E io ho visto dei costumi molto belli, molto particolari, sì, proprio le cameriere con la criolina, insomma col grembiolino, con tutte... Gli anni sono quelli, sì. Perché hai deciso di mettere in scena questo classico della commediografia inglese? Guarda, io sono 20 anni che faccio il produttore teatrale e ho sempre lavorato un po' con le star del cinema italiano, da Sergio Castellitto a Nancy Brilli, Ricky Tognazzi, Stefano Accorsi l'anno scorso. Devo dirti che avevo voglia di formare una compagnia di giovani per il futuro del teatro italiano, per il futuro degli spettatori italiani, e quindi questo testo, che appunto prevede 32 attori in scena, si prestava benissimo a iniziare un percorso. È un testo che ho sempre molto amato, qualche anno fa volevo farne un film addirittura con la regia di Valerio Binasco, che è un regista teatrale, volevo farlo debuttare in cinema. Wesker ci scrisse la sceneggiatura, poi non se ne fece più nulla, perché insomma non è facilissimo fare cinema in Italia, e ho colto l'occasione al volo e ho detto va bene, facciamo che questo The Kitchen sia l'inizio di un'avventura, e infatti la compagnia si chiama The Kitchen Company. Ma che cosa ha il teatro inglese contemporaneo di più del teatro italiano? Forse quello italiano ha dimenticato un pochino l'azione a favore della metafora, un po' pesante. Forse sì. Guarda, io non so, autori per carità ne abbiamo, ma ho la sensazione che i nostri bravi autori italiani, e ne abbiamo, ti ripeto, vadino un po' poco al pubblico, scrivono un po' troppo per se stessi. E il risultato non è quindi poi eclatante, mentre gli autori inglesi, americani, francesi scrivono assolutamente per il pubblico, ed è questo che bisogna fare. E molte volte anche i registi incappano in questi errori. Io ho un'adorazione per Giorgio Strehler, che invece pensava assolutamente al pubblico, era un grande regista che pensava che il suo spettacolo fosse visto da un pubblico, da degli spettatori. L'importante in teatro è non annoiare mai. Tu prima hai detto una commedia, sì, è una commedia The Kitchen, ma non è una commedia brillante o esilarante. Ma ti assicuro che il pubblico non si annoierà mai, neanche 2 secondi. Azione, manca l'azione nel teatro italiano, va bene, diciamo così, infatti. Un pochino sì. Allora, ricordiamo, regia di Massimo Chiesa, che fonda questa compagnia di giovani autori, 32 attori in scena, al Teatro Nuovo dal 29 settembre al 4 ottobre a Milano, con The Kitchen di Arnold Wesker. Allora, grazie, in bocca al lupo. Grazie a tutti. quello che sentite è un sogno, il sogno di Galileo, che il 29 settembre alle 20:30 verrà suonato nella Basilica di San Nicola a Bari. E noi abbiamo qui a Cartellone Federico Bonetti Amendola, che ha scritto il testo Il sogno di Galileo. Che cos'è questo spettacolo? Uno spettacolo tra teatro e musica, Federico? Sì, è uno spettacolo nato come esperienza di un racconto musicale, è nata la musica, è stato aggiunto un racconto che mi ha ispirato sulla figura di Galileo, i rapporti con la figlia, dei temi particolarmente interessanti. E in seguito, in questa occasione di Bari, è diventato una vera e propria azione musicale, quindi è musica che contiene brani recitati, un racconto, dei canti e degli esperimenti anche di musica elettronica, come si sentirà, perché c'è anche il segnale di una pulsar che suona. Quindi è più che altro uno spettacolo musicale, tu sei un compositore, e che cosa vuol dire scrivere uno spettacolo musicale per uno scienziato? Ma significa che io ho visto di questo scienziato l'aspetto umano interiore che mi ha molto colpito. Ovviamente mi sono documentato, studiato, ho letto, però non potrò mai competere con chi è esperto, con chi lo scienziato o col filosofo della scienza, ma di Galileo ho potuto individuare quelli che sono i conflitti, i dissidi, i rimpianti, le speranze, nonostante io l'abbia immaginato in un momento della sua tarda età, quando ancora era agli arresti domiciliari e non vedeva più praticamente, quindi aveva solo la figlia, come la figlia monaca, come angelo custode. Quindi la musica che muove, che è una rappresentazione di quello che muove l'anima di questo grande, esatto, scienziato, giusto? Allora ricordiamo, esatto, l'appuntamento il 29 settembre nella Basilica di San Nicola, Il sogno di Galileo, uno spettacolo che proprio in omaggio al grandissimo scienziato, scritto da Federico Sonetti Amendola. Ascoltiamo un altro piccolo assaggio. Ricordiamo quindi l'appuntamento a Bari, 29 settembre, ore 20:30, Basilica di San Nicola, con queste splendide musiche di Federico Bonetti Amendola, Il sogno di Galileo, per scoprire le passioni intime di questo grande scienziato. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Antonella Migliaccio in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a cartellone@radio24.it. Una buona giornata da Elisabetta Fiorito.